giornale radio del Friuli Venezia Giulia. La riconciliazione tra italiani e sloveni su queste terre dovrebbe essere conosciuta in tutta Europa, a dirla Gorizia e la commissaria europea per l'allargamento Marta Kos, che ritiene maturi i tempi per procedere con l'adesione alla UE dell'Ucraina. Era una ricercatrice di chimica all'Università di Trieste, la donna di 25 anni travolta mortalmente sulle strisce in centro a Trieste ieri sera. Dopo essersi sbarazzate di Alessandro Venier, la madre Lorena e la compagna Maylin Castro Monsalvo progettavano di trasferirsi entrambe in Colombia. Hanno creato profili falsi su WhatsApp del comandante dei carabinieri Friuli Venezia Giulia e di Trieste per invitare le persone a recarsi nelle caserme dei carabinieri e approfittare degli appartamenti vuoti, l'ultima trovata dei truffatori. A Fiumicello la polizia ha arrestato un uomo che nel bagagliaio aveva una pistola carica, ma con la matricola a brasa. Nel B&B dove alloggiava, sequestrata un'altra pistola clandestina e 40 grammi di cocaina. La passione per la tradizione riempie i show cooking al Friuli Doc promossi dall'associazione Cuochi Udine. Buongiorno da Andrei Marusic e Nada Ciocchi. In apertura di questo giornale radio, i temi europei con la commissaria per l'allargamento europeo Marta Kos, che è stata ospite dell'evento Cultura in Dialogo promosso dall'Arcidiocesi di Gorizia nell'ambito di Go 2025. La commissaria ha lodato il successo della capitale transfrontaliera europea come esempio di riconciliazione costruito insieme da italiani e sloveni. È in primer Gorizia in Nova Gorizia è nekaj kar bi morala poznati cela Europa. L'esempio di Gorizia e Nova Gorizia dovrebbe essere conosciuto in tutta Europa. Qui le ferite generate dalle divisioni e dai conflitti si sono rimarginate. Questa è la vera Europa. Sono le parole della commissaria per l'allargamento e la politica di vicinato, la slovena Marta Kos, impegnata nella creazione di un programma per la riconciliazione utile al processo di allargamento che valorizzi proprio le esperienze maturate tra Italia e Slovenia. Ospite dell'evento Culture in Dialogo, promosso dall'Arcidiocesi di Gorizia nell'ambito della Capitale Europea della Cultura, ha discusso dell'importanza dell'allargamento dell'Unione Europea con i direttori del Primorsky Dnevnik Igor Devetak e del Messaggero Veneto Paolo Mosanghini. A moderare l'incontro il direttore del settimanale Voce Isontina Mauro Ungaro. Sull'Ucraina ha sottolineato che è il primo paese candidato in stato di guerra a entrare nell'Unione, un fatto che dimostra quanto sia necessario il progetto europeo nato come progetto di pace. Con l'ingresso di Kiev, ha aggiunto, si può garantire una zona di sicurezza più ampia. La Kos ha illustrato anche lo stato attuale dei negoziati per l'ingresso nell'Unione Europea e ha affermato che il paese più vicino all'adesione è il Montenegro, seguito dall'Albania. Quanto alla Serbia, Kos ha ricordato che restano da completare le riforme indispensabili per l'adesione, a partire dal pluralismo e dal pieno stato di diritto. Andrei Marusic e Niki Filipovic, TGR Friuli Venezia Giulia. Era una giovane ricercatrice di chimica, la 25enne travolta mortalmente ieri sera mentre attraversava le strisce pedonali in via Fabio Severo. Un urto talmente violento da farle fare un balzo di 26 metri, travolta ieri sera da un SUV mentre attraversava sulle strisce pedonali a poca distanza dall'università che frequentava. Ha perso la vita lontano da casa la studentessa fuori sede Marta Giannelli, 25 anni, originaria di Melzo nel Milanese, a Trieste era venuta dopo la laurea magistrale alla Statale di Milano un anno fa, grazie ad un assegno di ricerca in chimica. Solare, brillante, con un'intelligenza vivace, la colonna del nostro laboratorio, la descrive così la sua docente Barbara Milani. Marta lavorava sulle molecole della plastica per rendere il prodotto più riciclabile. L'auto che l'ha investita in via Fabio Severo procedeva in salita, sembra a velocità sostenuta, alla guida un triestino di mezza età. Sull'asfalto non ci sono segni di frenata, il fuoristrada deviato sull'isola Salvagente, abbattendone le ringhiere. La ragazza è stata immediatamente soccorsa da una dottoressa che passava di lì, ma nonostante le disperate manovre di rianimazione proseguite dai sanitari del 118, non ce l'ha fatta. Il conducente sotto shock, sottoposto ad alcol test, non guidava in stato d'ebbrezza. È rimasto a poca distanza dalla vittima per ore vicino alla moglie che lo ha raggiunto sul posto. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Incidente in tarda mattinata sull'autostrada A23 tra il confine di Cocao e Tarvisio in direzione Udine tra un pullman e due auto, ci sarebbero tre feriti. L'incidente ha prodotto disagi al traffico, rallentamenti e code si registrano anche sul nodo di Palmanova in direzione Udine e alla barriera dell'Isert in entrambe le direzioni. Lorena Veniere e Maylin Castro Monsalvo, suocera e compagna, progettavano di trasferirsi entrambe in Colombia dopo essersi sbarazzate di Alessandro Veniere, almeno così emerge dal primo racconto fatto al carabiniere che aveva registrato la testimonianza delle donne arrivando nella casa in cui Alessandro Veniere è stato ucciso e fatto a pezzi. Nuovo colloquio in carcere alla Giudecca di Venezia questa mattina tra Maylin Castro Monsalvo e i suoi difensori, ma bocche cucite da parte dei legali di entrambe le indagate per l'omicidio di Alessandro Veniere. Ad indagini ancora in corso, i primi punti fermi di quanto accaduto sono dati dalla confessione spontanea della Castro, registrata da un carabiniere appena giunto alla villetta, e da quella più consapevole e argomentata della Veniere ai giudici. Dalle carte processuali finora emerge una storia legata a doppio filo alla Colombia, il paese di Maylin. Il progetto prevedeva che Maylin si sarebbe dovuta trasferire lì. Lorena, infermiera caposala, Gemona l'avrebbe raggiunta dopo la pensione e insieme avrebbero nascosto alla bimba la verità sul padre, celandone le vessazioni e raccontandolo in termini positivi. Secondo la madre, Alessandro non lavorava più ma trafficava armi, aveva comprato un terreno in Colombia. L'idea dell'omicidio, dice Lorena, sarebbe venuta a Maylin un mese prima, dopo essere stata picchiata da Alessandro. La compagna avrebbe insistito nel proposito nei giorni successivi, proposito concretizzatosi al momento dell'acquisto da parte della vittima dei biglietti aerei per la Colombia. Nessun litigio scatenante o motivo di difesa, le due pensavano di far credere a tutti che si fosse trasferita all'estero. C'è poi un proposito definito fantasioso dal GIP. Lorena aveva pensato di disfarsi del corpo in montagna oppure addirittura nel rio dell'Amazzoni. Alessandro avrebbe inoltre minacciato svariate volte Maylin dicendole che una volta in Colombia l'avrebbe annegata in un fiume in mezzo alla foresta. Tutti i dettagli sono al vaglio degli inquirenti per verificarne la veridicità. Per loro non è ancora provato che la vittima maltrattasse le donne. Proprio la partenza per la Colombia di Alessandro è uno dei motivi che ha giocato anzi a sfavore di Lorena e Maylin nella convalida delle misure cautelari. Le due avrebbero avuto tempo e modo di sottrarsi alle sue presunte angherie. La loro pericolosità per il giudice emerge dalla premeditazione, dalle modalità cruente del delitto e dalla freddezza successiva, con Lorena tornata subito a lavorare e Maylin, che se non avesse attraversato una fragilità depressiva, forse non si sarebbe autodenunciata. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Le tecniche delle truffe sono in continua evoluzione. Nelle ultime settimane a Trieste si sono verificati alcuni tentativi di truffa via telefono e via WhatsApp, in cui malviventi si sono spacciati per ufficiali dell'arma dei carabinieri, utilizzando nella messaggistica le generalità e le foto sia del generale di brigata Gabriele Vitaliano, comandante della Legione Carabinieri Friuli Venezia Giulia, sia del colonnello Gianluca Migliozzi, comandante provinciale dei carabinieri. I malintenzionati, utilizzando immagini del profilo WhatsApp riportati e le immagini di due ufficiali, verosimilmente acquisiti dal web, chiedevano somme di denaro oppure invitavano i cittadini a recarsi presso una caserma dell'arma con vari pretesti. La finalità in quest'ultimo caso era di far lasciare l'abitazione incustodita per poter entrare con maggiore facilità e circuire chi fosse rimasto nell'abitazione. I carabinieri ricordano che le forze dell'ordine non chiedono mai denaro per alcun motivo, né telefonicamente né di persona, e in caso di qualsiasi dubbio contattare subito il 112. La Polizia di Stato, durante un servizio di controllo del territorio nella Bassa Friulana, ha arrestato un cittadino italiano di 61 anni per detenzione illecita di due pistole, una con matricola Brasa, di 40 grammi di cocaina. L'arresto è avvenuto a Fiumicello. Gli agenti della squadra mobile, insospettiti dai vani tentativi dell'uomo di allontanarsi con l'automobile dagli agenti stessi, lo hanno fermato e perquisito. Perquisendo l'automobile, nel bagagliaio hanno trovato una pistola semiautomatica Beretta del calibro 6.35 con caricatore munito di 8 cartucce all'interno e matricola Brasa. La successiva perquisizione estesa alla camera di un bed and breakfast dove l'uomo, che risiede fuori regione, aveva preso alloggio, ha consentito agli agenti di rinvenire e sequestrare un'altra pistola Beretta, sempre detenuta illegalmente, nonché 40 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, 7.800 euro probabile provente dell'illecita attività di spaccio. L'uomo si trova in carcere, come disposto dal GIP, in sede di convalida dell'arresto. Uno sguardo al meteo, cielo sereno su costa e pianura, nuvoloso in montagna, le temperature registrate alle 11, Trieste 24 gradi, mare quasi calmo con temperatura di 25 gradi. Udine Gorizia 24 e mezzo, Pordenone 24, Tolmezzo 21, Tarvisio 18, Forni di Sopra 16,5 gradi, Piancavallo e Sappada 15 gradi, Monte Lussari e Monte Zoncolan 12, Lignano 24 con temperatura del mare di 23, Grado 23 con temperatura del mare invece di 24 gradi. Le previsioni dell'ARPA FVG, questo pomeriggio aumento della nuvolosità, in serata e soprattutto nella notte peggioramento con piogge da moderate ad abbondanti, probabilmente anche intense e temporalesche, specie sulle zone orientali. Nella notte sulla costa possibile vento da ovest o sud-ovest anche sostenuto. Domani mattina da nuvoloso a coperto con piogge da moderate ad abbondanti, probabilmente anche intense sulle zone orientali e sulla costa vento sostenuto. Nel corso della mattinata comunque un miglioramento con cielo variabile o poco nuvoloso a partire dalla Carnia e dal Pordenonese. Un viaggio fra le eccellenze del territorio e le ricette tradizionali come i chansons e il frico, ma a Friuli Doc c'è spazio anche per allergie e intolleranze alimentari e per scelte alimentari come le diete vegetariana o vegana. E infatti sono stati numerosi partecipanti allo show cooking della chef Laura Martinuzzo organizzato dall'associazione Cuochi Udine. Cosa ha preparato? Tre ricette completamente vegane, quindi senza glutine, senza lattosio. Ho preparato un antipasto fatto con un involtino di riso, una zuppa fatta con una zucca, delle patate, dei ceci, del latte di cocco e del pomodoro e una crostata, diciamo, senza cottura e una marmellata praticamente crudista dove non ho avuto il bisogno di cucinarla perché ho utilizzato puramente la frutta vera e propria. È una cucina per chi ha intolleranze, allergie, ma non solo. E allora, è una cucina sicuramente per chi ha questo tipo di problematiche, diciamo, queste esigenze, ma è una cucina comunque, direi, adatta a tutti, perché comunque è una zuppa molto molto apprezzata, una zuppa amabile, e quindi perché no? Diciamo che chiunque la può mangiare. E la gente è interessata anche a questo tipo di proposte in una manifestazione che guarda molto alla tradizione? Devo dire la verità, una volta non vedevo tutto questo interesse per un tipo di cucina magari vegetale oppure vegana, ma vedo che ultimamente la gente sta iniziando a mangiare meglio. Quindi diciamo che vedo che il mondo sta iniziando a cambiare anche la mentalità, diciamo, si sta avvicinando al mondo vegetale, quindi direi bene. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. A Gorizia il comitato contrario alla demolizione dell'ex ospedale civile ha lanciato una raccolta firme online per salvare il complesso di via Vittorio Veneto e riqualificare la struttura per creare un centro medico per la terza età. La regione e l'EDR hanno invece in progetto di costruire in via Vittorio Veneto il nuovo polo scolastico per gli istituti Pacassi e Cossar da Vinci. Per l'architetto Romano Schnabel, portavoce del comitato contrario alla demolizione del vecchio ospedale gorinziano, i due istituti sono già funzionanti e soffrono il calo demografico e l'area dell'ex ospedale è decentrata e lontana dai servizi. Secondo il comitato, inoltre, la demolizione comporterebbe un danno erariale e oltre a 100.000 metri cubi di materiali da smaltire. L'EDR comunque rassicura che il materiale sarà frantumato e non ci sarà alcun inquinamento ambientale e anche gli alberi non verranno abbattuti. Si è svolta ieri pomeriggio presso il monumento di San Polo a Monfalcone la cerimonia commemorativa per il 106esimo anniversario dell'impresa di fiume di Gabriele D'Annunzio e dei suoi legionari. L'evento, promosso dalla sezione di fiume della Lega Nazionale in collaborazione con il comune di Monfalcone. Ricordare l'impresa di fiume, ha detto il sindaco Luca Fasan, significa conservare e trasmettere la memoria, ma anche richiamare le radici su cui si fonda l'identità del nostro territorio e delle sue genti. Quell'impresa, secondo Fasan, fu un grande gesto di amor di patria e sono orgoglioso, ha detto il sindaco, di portare la partecipazione del comune a questa cerimonia che dal 2017 ci vede sempre presenti con il nostro gonfalone nel segno dei valori che uniscono le nostre comunità, ha concluso il sindaco di Monfalcone, Fasan. Il Museo della Letteratura Letz di Trieste, che racconta gli autori e le autrici nati, vissuti e attivi a Trieste dalla fine dell'Ottocento a oggi, fa il bilancio del primo anno di attività. Festeggia il suo primo anniversario dall'apertura il Museo della Letteratura di Trieste in Piazza Ortis. Quasi 53.000 visitatori e 60 eventi, fra cui Buon Compleanno Svevo a dicembre, il Premio Saba a marzo e Bloomsday, una festa per Joyce, a giugno. L'assessore all'educazione comunale di Trieste, Maurizio De Blasio. L'intenzione è quello di farlo crescere e di farlo visitare da sempre più persone. Mi piace sottolineare che è un museo che viene visitato anche più volte, quindi tanti tornano perché c'è sempre qualcosa da scoprire e si esce con la curiosità di approfondire qualcos'altro. L'ingresso rosso fuoco lascia il posto al marrone dell'arredamento borghese di fine Ottocento con l'armadio originale che fu di Italo Svevo, per passare poi alla lente azzurra della poesia di Umberto Saba e infine il verde che ci ricorda l'Irlanda di James Joyce. Nella lunga genesi di questo museo non sono mancate polemiche e gelosie fra autori. Riccardo Cepac, responsabile del museo. Eravamo preparati, abbiamo cercato di spiegare sempre nel modo più trasparente possibile le nostre scelte. Credo che ci siamo riusciti. Ieri sera, in occasione dei festeggiamenti per l'anniversario, è stato proiettato il documentario dedicato al museo e prodotto da Rai FVG, curato da Roberta San Germano per la regia di Tania Marmai. Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia. Da Primo Levi a Nirno, da Fellini a Claudio Magris, da Sepulveda a Agota Christoph, oltre 40 anni di volti che intrecciano letteratura, cinema e memoria, sono stati tutti fotografati da Basso Canarsa. Ora quei ritratti eloquenti, così il titolo della mostra, saranno esposti nel Salone Abbaziale di Sestola Regena alle 17. L'esposizione, organizzata da Tesis, associazione culturale con il Comune, curata da Claudio Cataruzza e Angelo Bertani, rende omaggio al fotografo degli scrittori che ha firmato molti ritratti entrati anche nella storia del Festival Dedica. E ora andiamo a Casarsa, dove è in corso la scuola Pierpaolo Pasolini. Sentiamo. Si conclude oggi la scuola Pasolini 2025, appuntamento internazionale di alta formazione, promosso per l'ottavo anno dal Centro Studi di Casarsa. Quest'anno 25 giovani accademici di università italiane e straniere hanno approfondito il rapporto tra l'intellettuale e il cinema. Il presidente del Centro Studi Pierpaolo Pasolini, Marco Salvadori. La scuola Pasolini, appunto, è arrivata all'ottava edizione e rappresenta un mattone importante nella programmazione del Centro Studi, soprattutto perché è inserita in un programma più ampio dedicato alla formazione, rivolta soprattutto ai giovani che amano e che vogliono conoscere l'opera e l'attività di Pierpaolo Pasolini. La scuola Pasolini quindi si integra con la scuola per docenti, che è stata fatta qualche settimana fa, con una high school nel novembre di quest'anno, un anno importante perché è l'anno del 50° anniversario della morte di Pierpaolo Pasolini, ma soprattutto si proietta più avanti nella programmazione dedicata a Pordenone Città della Cultura 2027, di cui il Centro Studi è un partner fin dall'inizio. Casarsa della Delizia, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Lo sport, il basket, Cividale approda in finale della Supercoppa di A2 dopo aver battuto Forlì per un solo punto. Al Pala de André di Ravenna è finita 86-87 dopo una rimonta alle Ducali nella seconda metà della partita e un finale da cardiopalma. Una settimana fa le due squadre si sono scontrate nella finale per il terzo posto al torneo Bertoluzzi a Lignano. In quell'occasione ha prevalso Forlì per 70-81, ieri sera invece ragazzi di coach Pilastrini, dopo un inizio sotto anche di 14 punti, sono riusciti a ridurre lo svantaggio e passare in vantaggio a metà dell'ultimo quarto con un finale burrascoso. Tripla del sorpasso e tiro libero falliti da parte di Forlì a un secondo dalla fine aprono a Cividale la porta della finale contro Rimini di domani sera. Tre sono stati gli uomini decisivi per la rimonta: Lucio Redivo, che ha realizzato 22 punti di cui 20 solo nel secondo tempo, doppia doppia da 21 punti e 11 rimbalzi per Dishaw Freeman, decisivo anche il giovane Francesco Ferrari con 17 punti a referto. Appuntamento di pre-season anche per il basket femminile alle 20 al Palacrisa Fulli di Pordenone. Si scontreranno Futurosa Trieste e Nuova Pallacanestro Treviso. L'incontro fa parte della Basketball Summer League, partita a fine agosto. Il calcio, la Triestina sarà impegnata oggi allo stadio Saleri contro il Lumezzane con calcio di inizio alle 15. Per l'allenatore Giuseppe Marino i giovani rinforzi garantiscono alternative e serenità nella gestione della gara. Indisponibili l'infortunato Pedicillo e lo squalificato Gunduz. In 3.000 il centro congressi del Porto Vecchio, trasformato per questo fine settimana nel Festival del Fitness e Benessere. Un tappetino per amico, insieme con la voglia di movimento e benessere. Il fitness ritorna ad essere centrale per la salute e la socialità. I tempi della pandemia sono un ricordo, lo testimoniano le 3.000 iscrizioni per oltre 2.000 partecipanti a Let's Move Trieste. La manifestazione, organizzata da Proloco, Comune e Creativa Eventi, Audace Trieste, Element e Cavana Run Club, che porta lo sport fuori dalle palestre e dentro al Porto Vecchio. Lezioni gratuite fino a domani con istruttori delle varie specialità del fitness, dallo yoga alla zumba, passando per il booty on fire. Federica Macri, istruttrice. La nuova tendenza è proprio quella del voler star meglio, quindi si parla di wellness, si parla di benessere, c'è sempre più una spinta su tutto quello che riguarda il mondo del Pilates, dello stretching, della mobilità, della postura. Abbiamo proprio visto un cambiamento dopo il Covid, persone che magari fanno lo smart working a casa, che hanno sempre più voglia di uscire dalle quattro mura di casa, andare a provare qualcosa anche di diverso, e quindi proprio la palestra ormai si sta lanciando sempre più nel mondo del benessere. Sono in programma la Night Run questa sera alle 20 e domani a scopo benefico la Bavisela Summer Family Run per l'ospedale Burlo Garofolo. E per spingersi più in là con lo sforzo fisico c'è anche il triathlon che, nonostante le difficoltà che comporta, la sua preparazione attrae sempre più appassionati. Giulio Borgini. Però forse il lato bello del triathlon è proprio questo, che ti insegna una disciplina sia all'interno dello sport che nella vita quotidiana. Quindi riuscire a conciliare quella che è la vita privata, la famiglia, il lavoro, gli amici con l'attività sportiva è allenante. Trieste, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. E domani, dopo il GR delle 8.30, va in onda la nostra rubrica Vita nei Campi. Sentiamo di che cosa si occuperà domani. Vita nei Campi, il settimanale radiofonico di agricoltura della redazione, in onda la domenica alle 8.50 su Radio 1 Rai. Domani incontra il consorzio Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori, che compie 25 anni. A seguire, per la storia del cibo, la sacralità del pane con due tradizionali ricette domestiche. Verità e leggende dell'agricoltura friulana, non è una terra per il frumento. I destini alterni di un antico meleto, quello della Certosa di Parigi. E ancora l'utilizzo del legno nell'affinamento dei vini, dalle foreste alle altre aree tutelate della regione, la necessità di reti transfrontaliere. In conclusione, andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia, previsioni meteo con una nota di climatologia locale, proverbio friulano della settimana. Udine Rita Micoli, TGR Friuli Venezia Giulia. E questo è tutto per questo giornale radio, che è stato redatto e condotto da Andrei Marusic e Nada Cioc, con la collaborazione tecnica di Mauro Ceccarelli. Ha collaborato in redazione Paolo Nuzzo. Da tutti noi l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.